Carissimi amici di Iceberg News, un debordante Aleger da Paolo Travagnin e Marino Midena. E eccoci giunti, ennesima puntata, siamo immediatamente con voi con il contatto telefonico 339-3990-836. Per essere con noi ci potete telefonare, smsare, mmsare, videomessaggiare, fate voi. Contatto telematico info@icebergnews.it, desumibile dal sito www.icebergnews.it. Visitatelo perché la nostra visibilità si sta incrementando a vista d'occhio. Naturalmente per il materiale potete inviarlo, anzi vi invito a continuare a farlo come lo state facendo così copiosamente a Paolo Travagnin, Iceberg News, via Ennio Bonifazi 36/500167 Roma. Naturalmente il vostro materiale è quanto di ben accetto è per noi, perché lo riproporremo naturalmente in trasmissione e potreste essere proprio voi i prossimi ospiti di Iceberg News. Perciò continuate a farlo perché parecchie delle vostre cose sono già andate in onda e le manderemo in onda. Naturalmente immediatamente passo la parola a Marino Midena in regia che ci esplicherà il sommario di questa bella puntata di questa sera. Marino? Sì, eccomi Paolo, sì, speriamo che sia proprio una bella puntata, noi ce l'abbiamo messa tutta come al solito, parleremo di tantissime cose, di cinema, di musica con le news e poi avremo i due appuntamenti video con il videoclip dell'IG Project, Intima Ordalia. E poi il cortometraggio Limite di velocità di Nucera. Tantissimi ospiti, Garofalo di Rock Show con cui parleremo di musica e poi due graditissimi ospiti, Eugenia Romanelli, professoressa all'Università La Sapienza di Roma, e Francesco Simeone che dirige una radio. Giovanissimo, vedremo, scopriremo questo movimento culturale che si chiama Bazar, bazarweb.info. Paolo. Grazie Marino delle tue puntualissime delucidazioni e come avevi detto partiamo subito con questa nostra riproposizione, perché loro sono gli IG Project che si celano sotto questo nome, Ivana Gatti e Gianni Maroccolo, che voi sapete benissimo chi è, insomma uno dei fondatori dell'IT FIBA, perciò grandissima notorietà avuta e che sta riavendo un grosso successo proprio con questo interessante progetto. IG Project sta girando l'Italia, ne è nato bastante Bastian Contrario, un doppio, un LP DVD, in pratica 12 brani in 12 video, e uno di questi è quello che vi presentiamo questa sera, è Intima Ordalia, come si diceva. E ve lo facciamo gustare. Allegra! Call. Ed eccoci rientrati in Iceberg News e come nostro uso e costume, carta e penna. Perché? Perché è proprio il momento dell'opportunità lavorativa. E che opportunità lavorativa? Perché stiamo parlando di Gabriele Salvatores, che sta cercando i protagonisti del suo nuovo film Come Dio Comanda. Chiaramente per partecipare, non vi sto a leggere tutta la trafila perché è troppo lunga, noi siamo sempre strettissimi, andate a leggervi in sovrimpressione Colorado Film, via Cavallini 24 00193 Roma, oggetto Come Dio Comanda. In bocca al lupo per chi riuscirà ad entrare in questo meraviglioso mondo del cinema. Vedo nell'altro studio Marino pronto con i nostri ospiti graditissimi e passo la parola a lui. Marino? Sì, eccomi Paolo. Come dicevi, ho accanto a me due graditissimi ospiti. Alla mia sinistra è Eugenia Romanelli, docente di comunicazione all'Università di Roma La Sapienza, e alla destra Francesco Simeone, che è direttore di una web radio. Adesso svegliamo meglio, perché i due personaggi sono in realtà legati da un'unica identità, che è Bazar, un nome molto evocativo, che racchiude che cosa, Eugenia? Dunque, Bazar lo definiamo un cultural brand, cioè un marchio che certifica cultura, noi la chiamiamo cultura intelligente, cultura di qualità. Questo marchio è diventato, diciamo, un movimento culturale e si tentacolarizza in una serie di prodotti culturali. Questi prodotti culturali sono un giornale web e presto cartaceo, una community, quindi un portale, una galleria d'arte online che poi fa anche eventi a ogni inaugurazione di mostra, una radio appunto e un metodo di comunicazione che viene insegnato nelle università, che studia proprio gli effetti esperienziali di questa comunicazione multimodale. E poi ovviamente una collana di saggi coedita da Raieri, che è lo strumento che certifica in qualche modo i contenuti di tutto questo, di questa attività, di questo movimento. Vediamo già in copertina. E quindi un movimento culturale che però non dobbiamo farci ingannare dal nome altisonante, in realtà vive la realtà in maniera molto pratica, perché fa tantissime cose. Tantissime iniziative, mi sembra. Beh, il nome altisonante è Bazar o Movimento Culturale? Movimento Culturale, Movimento Culturale. No, nel senso che Bazar nasce proprio con l'idea di mercato in una piazza, quindi un luogo che non ha porte, con un via vai movimentato di gente in cui ognuno mostra ciò che ha e ciò che fa per scambiarlo, venderlo, semplicemente appunto mostrarlo. E questi che noi chiamiamo prodotti sono creatività sostanzialmente, quindi cultura e creatività libera vuol dire tutto e niente, forse preferisco ancora di più usare la parola critica. L'idea è che ognuno di noi può raccontare ciò che fa, come lo fa, nella speranza in qualche modo di creare piccoli corticircuiti, quindi piccole provocazioni nella società in cui viviamo, in cui purtroppo molto spesso anche la cultura viene inghiottita dal mercato culturale. Per fare questo cerchiamo di unire strategie di business e quindi stare sul mercato, quindi il nostro non è un movimento culturale contro qualcosa o che boicotta qualcosa, ma anzi in maniera intelligente e creativa utilizzare quelli che sono gli impianti di vendita e trasmissione e comunicazione dei prodotti culturali o comunque di cultura e arte, ma proteggendo e preservando l'originalità e la qualità dell'estro e del talento che ogni artista, ma ogni, come dire, ogni contribuente, se mi permettete il termine, ha. E poi mettete in mostra queste proposte attraverso varie iniziative tipo Bazar, sì, o Teens. Abbiamo appunto una galleria d'arte che è curata da Luca e Beatrice, e abbiamo un giornale che è diretto da me, da Vera Risi, ovviamente una testata nazionale, abbiamo una radio che ora ci racconterà Francesco Simeone, e appunto un metodo di docenza e tutte queste cose.